Io sono un produttore e non sono in nessuna carta, ma è molto interessante il concetto, per cui anche noi siamo qui proprio perché aderiamo a questa filosofia. E poi cioè, c'è l'esperienza quotidiana di andare a mangiare magari anche in un postaccio e spendere 10 euro per mangiare e 20 per una bottiglia di vino che magari è costata 2 euro e quindi avere la sicurezza di bere un vino cattivo. Per cui invece questa carta dei vini aiuta, appunto avendo l'autocertificazione della provenienza, insomma, così delle modalità di produzione, così tranquillizza anche il consumatore. Allora mi chiedo come si fa a fare più carte di vini, quindi anche io come potrò magari entrare in una futura carta di un qualche giro, di che sia un centro sociale o che sia magari un gruppo di ristoratori che aderiscono a questo tipo di filosofia. Quindi mi chiedo quale potrebbe essere il motore per far nascere e comunque diffondere e convincere qualcuno ad adottare la sta carta dei vini, insomma, ecco.